6. Ascolta e controlla. 1. Quando ero bambino, giocavo a calcio. 2. Lucia non è restata perché era già in ritardo. 3. Non ho ascoltato la lezione perché avevo mal di testa. 4. Quando abitava qui, stava molto bene. 5. Ieri sera era stanco. Si è addormentato mentre leggeva. 6. Da piccoli non facevano mai i compiti. 7. Ieri le lezioni sono terminate alle 11 perché il riscaldamento non funzionava e faceva molto freddo. 8. 10 anni fa non lavoravo in questa azienda. Vivevo a Madrid e mi occupavo di traduzioni. 9. Quando siamo tornati a casa era tardi e i bambini già dormivano. 10. Ieri Stefano ha perso gli occhiali mentre andava in palestra.